Noi come Riders Union, in seguito alla grande giornata di mobilitazione del 26 marzo, abbiamo lanciato un appello, una chiamata larga a tutte quelle realtà, a tutti quei soggetti, a tutte quelle categorie e quei settori che come Riders hanno sofferto e continuano a soffrire all'interno di questa pandemia, la crisi, hanno perso il lavoro, hanno difficoltà economiche, non hanno contratti o li hanno senza tutele e diritti. Quindi abbiamo lanciato appunto questa piazza del primo maggio guardando ad una convergenza delle lotte. Che cosa è successo? Abbiamo appreso qualche giorno fa dalla stampa che quel giorno, appunto il primo maggio, nella nostra città Bologna, dei gruppi dichiaratamente fascisti, nazisti, vorrebbero venire, scendere in piazza e portare appunto il loro odio, il loro razzismo. Noi abbiamo detto che chiaramente non accettiamo questa cosa. Noi lo diciamo proprio dal punto di vista Riders. Noi siamo costituzionalmente migranti, meticci, democratici, antifascisti e quindi non possiamo accettare questa cosa. Offriamo la piazza dei Riders come spazio di convergenza per tutti i lavoratori in lotta e per tutti gli antifascisti. Ricordiamo che è stata convocata Piazza del Nettuno alle ore 16. Questi gruppi, in particolare questa volta si chiama Movimento dei Patrioti, sono una delle tante forme in cui le organizzazioni neofasciste si camuffano e cercano appunto di magari fare i presa anche sfruttando la disperazione. Esattamente, quello che diciamo noi è che non possiamo accettare chi specula sulle sofferenze in un momento così difficile, invocando magari la priorità, la supremazia di qualcuno a discapito di qualcun altro. Questa cosa appunto per noi è inaccettabile. Lo diciamo chiaramente, quel giorno in piazza ci saranno gli antifascisti e non permetteranno a questi individui di attraversare le strade. Ricordiamo, tra l'altro, sono gli stessi che negano la pandemia, che minimizzano, mentre in questa situazione difficile c'è chi appunto ha avuto cura della salute di tutti, in particolare dei segmenti più fragili della popolazione. Ecco, noi invitiamo la Bologna solidale, la Bologna antifascista, al di là delle tessere e delle biografie, a venire in piazza con i Riders e insieme ai Riders per dire ancora una volta che questa città e quella data del primo maggio sono antifasciste.